Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. La crisi scaturita dalla pandemia di Covid-19 ha toccato tutti i settori dell'economia e i servizi collegati, anche il trasporto delle merci ferroviario. Eppure questa modalità è stata una di quelle che nei mesi scorsi ha garantito la continuità della catena logistica e in molti casi, come nei collegamenti fra Europa e Cina, ha segnato una forte crescita. Nelle scorse settimane le compagnie europee del settore e la presidente della Commissione Trasporti dell'Europarlamento, Karima Delli, hanno sottoscritto una lettera per richiamare la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo shift modale in modo da raggiungere gli obiettivi europei per il 2030. Quali sono le prospettive in questa fase di ripartenza post-lockdown? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, oggi ci occupiamo di cargo ferroviario. È necessario uno shift modale, il trasferimento di una quota parte di merci su questo tipo di modalità spinge l'Europa in questo senso, spinge anche l'Italia, ma spingono le stesse imprese italiane di autotrasporto che vedono nel cargo ferroviario un alleato importante, soprattutto per quanto riguarda le grandi distanze. Noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Marco Gosso, amministratore delegato di Mercitalia Logistics, che è la holding merci del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno Massimo, grazie a te per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo con l'analizzare un po' la situazione italiana. Come sono andati questi mesi di lockdown per il cargo ferroviario? È stata una fase particolarmente complessa e delicata. Credo che il settore si sia mosso abbastanza come ci siamo mossi noi. Il Polo Merci Italia, con tutte le sue società, nel periodo di massima emergenza da Covid-19 è stato in prima linea per fare in modo che alcuni dei servizi essenziali, sia per il nostro paese che per alcuni paesi europei, non subissero interruzioni. Noi dal canto nostro l'abbiamo fatto ovviamente con grande senso di responsabilità, attuando tutte le prescrizioni impartite dal governo e dal gruppo Ferrovie dello Stato in modo tale che i nostri dipendenti potessero svolgere il loro lavoro con la massima sicurezza in un periodo così difficile. Nella fase di lockdown Mercitalia ha trasportato tantissimi prodotti alimentari che poi sono finiti sulle nostre tavole, dalle acque minerali al latte, dallo zucchero all'alimentare secco, dai prodotti in scatola ai succhi di frutta. Abbiamo contribuito a supportare il nostro esercito, le nostre forze dell'ordine affinché potessero ricevere i materiali e i mezzi di cui hanno bisogno per supportare al meglio i cittadini. Non c'è dubbio che la fase emergenziale ha avuto un impatto molto diverso sulle diverse tipologie di attività che le società del Polo Merci Italia svolgono. Alcune hanno avuto un incremento, appunto i prodotti alimentari, i prodotti legati all'e-commerce, ma la maggior parte dei prodotti che normalmente noi trasportiamo, delle attività che noi normalmente svolgiamo, ha registrato una forte flessione. Certo. La situazione delle attività durante la fase emergenziale ha comportato inoltre un incremento dei costi operativi che noi abbiamo dovuto sostenere, che poi si sono ovviamente tradotti in un impatto importante sulla bottom line. In termini di volume di attività, la contrazione che abbiamo registrato, diciamo, nei mesi caldi dell'emergenza rispetto allo scorso anno è stata più o meno del 20% a marzo, del 35% ad aprile e del 10% a maggio. Quindi una sequenza che lascia ben sperare, insomma stiamo riprendendo terreno, giugno è appena concluso, probabilmente non avete ancora il dato preciso, ma come sta andando? Sì, diciamo che forse si incomincia a vedere un po' di trend leggermente, perché quello che abbiamo assistito fino adesso è stato delle settimane in cui l'attività andava meglio, poi di nuovo un freno dell'attività, poi l'attività riprendeva, poi di nuovo un freno. È chiaro che nelle comparazioni anno su anno contano anche molto la presenza delle festività, eccetera. Certo. Direi che condivido con te il fatto che probabilmente stiamo vedendo una ripresa leggermente migliore rispetto a quelle che erano le nostre aspettative. E questo è un segnale importante non per il mondo dei trasporti, ma per quello dell'economia. Quindi in qualche modo quali sono le prospettive a medio termine di ripresa? Qual è la vostra percezione di questo segmento? È come sempre molto difficile fare previsioni in questa fase, anche perché tutte le previsioni che abbiamo fatto quest'anno non le abbiamo azzeccate. Diciamo che guardando dallo specchietto retrovisore quello che è avvenuto nelle ultime neanche settimane, gli astrologi le hanno azzeccate, però bisogna dire, quindi siamo in buona compagnia. Sì, esatto. Quindi diciamo che probabilmente l'impatto che potremo avere quest'anno è leggermente inferiore rispetto a quello che noi abbiamo stimato sostanzialmente ad aprile. Però tutto ovviamente dipende da cosa succederà a questo virus e cosa succederà all'economia. Per noi ovviamente la cosa è ancora più complicata, perché ti ricordo, Massimo, che grosso modo il 50% del nostro volume di attività avviene in attività internazionali. E quindi certo, le ripercussioni complessive legate all'emergenza coronavirus sono molto condizionate, e sono tuttora molto condizionate dalle diverse tempistiche di diffusione dei contagi e dalle diverse modalità di contenimento dei contagi adottate dai paesi in cui dai singoli paesi, certo. E qui in questo caso l'Europa è andata un po' in ordine sparso. Tra l'altro è notizia di qualche giorno fa anche la decisione di numerosi paesi europei di non applicare alcune misure anti-Covid decise dall'Unione Europea, quindi tutto questo non fa che rallentare sicuramente questo processo di ripresa. A proposito ancora di ripresa, si parla tanto in Europa di shift modale, c'è un intervento della stessa Unione Europea che vorrebbe un trasferimento di una quota parte del traffico merci dalla strada alla ferrovia. Quali sono le prospettive a questo punto di lungo periodo per questo trasferimento? Ma io direi che questo periodo, questa emergenza ci ha sostanzialmente insegnato due cose fondamentali per quanto attiene in generale il settore della logistica e del trasporto merci. La prima cosa è che il rischio per le imprese di avvalersi di catene del valore lunghe, articolate, geograficamente disperse, non è più sostenibile. L'emergenza Covid ha evidenziato come i vantaggi in termini di efficienza operativa che le aziende possono ottenere andando a produrre o approvvigionare le merci laddove costa di meno possono essere di gran lunga superati dalle inefficienze, dai disservizi che vengono indotti da fenomeni di disruption anche minimamente rilevanti, non è necessario che siano così potenti come il Covid. Le imprese credo che abbiano finalmente capito che il rischio di far parte di supply chain complesse non valga più la candela. E questo perché negli ultimi decenni anche alcuni dei vantaggi che si ottenevano andando a approvvigionare in modo speculativo i diversi fattori della produzione, penso ad esempio al costo del lavoro nei paesi sottosviluppati, si sono poi progressivamente allineati, affievoliti. Certo. La seconda lezione che abbiamo imparato è che il rischio di avere un sistema di trasporto merci che sia quasi totalmente monomodale non è più sostenibile anch'esso. Queste due lezioni, secondo me, avranno un impatto, avranno conseguenze importanti per il settore del trasporto merci e logistica. Credo che nei prossimi anni quello che vedremo è che le imprese cercheranno progressivamente di accorciare il raggio di azione della loro supply chain, facendo in modo che i modelli produttivo-distributivi che utilizzeranno saranno meno globali e un po' più regionali, e le politiche di governo dei sistemi di trasporto delle merci messe in atto dai principali paesi europei, e immagino primo tra tutti l'Italia, che è quello che parte più indietro, avranno come obiettivo principale quello di riequilibrare lo split modale, dando maggior rilevanza alla modalità ferroviaria per il trasporto delle merci, almeno come dicevi tu, sulle medie e lunghe distanze. Certo, ecco, in questo senso vale sempre il ragionamento di uno spirito collaborativo tra modalità, quindi la famosa intermodalità, la possibilità di far viaggiare le merci utilizzando nello stesso tempo varie modalità di trasporto, quindi la gomma, il cargo ferroviario, le autostrade del mare, e questo è un principio che varrà sempre di più in futuro. Non c'è ombra di dubbio, assolutamente sì, e però ovviamente avendo sempre ben presente il fatto che poi le imprese ragionano anche sull'economicità, sulla competitività della soluzione. Quindi in questo caso, se questi due fattori spingeranno, credo, le imprese a prendere più in considerazione soluzioni che prevedano anche la modalità ferroviaria come modalità intermedia nei trasporti. Dall'altra parte, quello che abbiamo assistito negli ultimi mesi è un progressivo crollo del prezzo del petrolio, che si è tradotto in un abbassamento del costo del gasolio per autotrazione, ed evidentemente questa cosa è di nuovo risposta all'equilibrio un po' dall'altra parte. Quindi in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui l'offerta di servizi di trasporto eccede in maniera significativa la domanda di servizi di trasporto, il prezzo diventa un elemento discriminante molto importante, e certamente chi può utilizzare un fattore di produzione, certo, qual è per esempio il costo del carburante, molto competitivo, tende ad avere un vantaggio. Ecco, attorno all'evoluzione di tutti questi elementi si giocherà la possibilità di riequilibrare un pochino i sistemi di trasporto. Bene, termina qui questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Marco Gosso, amministratore delegato di Mercitalia Logistics, la holding merci del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L'appuntamento con Container torna, come al solito, sabato intorno alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.